Allora, noi abbiamo pensato a una campagna di comunicazione molto forte, proprio con l'obiettivo di parlare con quelle persone che normalmente non vanno in bicicletta, e in particolare usciremo con 10 video sia su Facebook che su YouTube, dove intervistiamo alcune persone importanti, ma importanti vuol dire anche bambini, vuol dire anche medici, anche persone che portano avanti in qualche modo la cultura della bicicletta dal loro punto di vista, e saranno video molto particolari che puntano proprio a, diciamo, incuriosire anche la persona che normalmente non si interessa di bicicletta, proprio perché vogliamo parlare soprattutto con loro. Invece ti volevo chiedere, riguardo alla sensibilità generale, avete riscontrato nel corso del tempo, visto che voi comunque agite, vi occupate da tanto tempo di ciclismo, avete riscontrato un aumento di sensibilità o anche semplicemente di ciclisti? Sì, allora l'aumento di ciclisti è evidente, penso sulle strade, lo vediamo tutti, sono praticamente raddoppiati in 10 anni, che è il tempo da cui noi abbiamo iniziato, no? Abbiamo iniziato 10 anni fa, sia con il Bike Pride che con altre iniziative, a promuovere la bicicletta a Bologna, quindi abbiamo proprio visto questo aumento e lo vediamo anche nella facilità di proporre questo tipo di cose. Oggi siamo qui con il Comune di Bologna che supporta attivamente questo festival. 10 anni fa era un'impresa anche solo ottenere i permessi per far chiudere la strada, era difficile capire l'importanza di queste manifestazioni, gli sponsor non rispondevano, non c'era tanto interesse. Adesso veramente qualunque cosa si fa sulla bicicletta tutti sono con le antenne dritte, perché è un tema che piace, che unisce e soprattutto è divertente. Bologna è una città che ovviamente è comunque un po' predisposta, diciamo, per il ciclismo. Però mi domando, è possibile, come si potrebbero raggiungere quelle città che invece sono storicamente meno sensibili? Penso alle più grandi tipo Roma, Napoli, Palermo. Cioè, come si possono sensibilizzare queste altre città? Ma in realtà abbiamo degli esempi da fuori Italia, da altre città d'Europa, dove ci sono stati dei cambiamenti molto veloci in città molto complesse. Penso a Parigi, penso a Madrid, penso a Londra. Cioè città che sono partite veramente da zero, cioè che come cultura ciclistica erano zero rispetto all'Italia, che in qualche modo ha sempre avuto la bicicletta un po' al centro di una certa sottocultura, se proprio non cultura, mentre queste capitali europee, che sono anche molto più grandi delle città italiane, partendo da zero in 10-15 anni hanno fatto una vera rivoluzione. Penso a Londra, che ha sviluppato una rete ciclistica incredibile in pochissimi anni. Madrid ha chiuso il centro al traffico privato entro il 2020 e ha sviluppato una rete ciclabile molto forte. Lo stesso Parigi, che ha messo il limite dei 30 km orari in tutta la città. Quindi veramente, paradossalmente, le città più complesse a un certo punto decidono che il traffico è veramente insostenibile e fanno delle rivoluzioni più radicali, mentre noi che siamo più predisposti in qualche modo tendiamo ad avere invece un cambiamento più lento e costante nel tempo. Per cui sono convinta che con amministrazioni coraggiose, che sono capaci in qualche modo di imporre dei cambiamenti radicali, ma non imporli con la forza, ma coinvolgendo i cittadini e facendogli provare e capire la funzionalità, l'efficacia, la semplicità di usare la bicicletta, si può fare un cambiamento grosso anche in città complesse e grandi come potrebbe essere Roma.